Il coordinamento Lesbiche Romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla nostra 65esima trasmissione. Oggi qui in studio siamo io, Caterina e Debora. Come vi abbiamo annunciato, l'organizzazione delle nostre trasmissioni nell'arco di un mese è un po' cambiato. L'appuntamento resta fisso ogni martedì dalle 21 alle 22, ma la scaletta sarà più o meno di questo tipo. Il primo martedì di ogni mese vi terremo compagnia informandovi sugli avvenimenti del mondo lesbico, femminista ed omosessuale, con tanta musica di donne, e leggendovi estratti di racconti e poesie lesbiche. Il secondo martedì avremo una replica della trasmissione precedente, mentre il terzo martedì avremo un palinsesto completo costituito da commenti agli avvenimenti politici e culturali italiani, ma anche mondiali del resto del mondo, recensioni musicali e letterarie, notizie di vario genere e le nostre rubriche fisse sulla musica lesbica indipendente e gli appuntamenti. Il tutto sempre accompagnato da una selezione di musica di donne. Il quarto martedì si ha la replica della trasmissione precedente. Mi raccomando, noi del coordinamento Lesbiche Romane continuiamo a cercare collaborazioni di vario genere, anche limitate al semplice invio al nostro indirizzo di email clrbp@hotmail.com o al fax 0668 64201, di interventi di commento su avvenimenti politici e sociali, vostri racconti, poesie o qualsiasi altra cosa vogliate condividere con noi e le nostre ascoltatrici. Non siate timide e cogliete l'occasione di dire finalmente la vostra opinione. Questa è una trasmissione fatta da lesbiche per le lesbiche, quindi fatela con noi. Just sit here and sigh, go long blues. I always get that mood indigo since my baby said goodbye. And in the evening when the lights are low, I'm so lonely I could cry, for there's nobody who cares cares about me? I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die. Fantastica Nina Simone con Mood Indigo. You ain't never been blue. No, no, no, no. Been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes while I just sit here and sigh. Go long blue. Sono trascorsi appena 3 mesi dall'8 luglio e sembra passata una vita. È quasi incredibile essere tornata nell'anonimato, ovvero nel sottobosco culturale, dopo tanto clamore. Prima e durante il World Pride era quasi diventato un incubo trovare in ogni giornale ed in ogni trasmissione televisiva almeno un accenno a gay, lesbiche, transessuali, annessi e connessi. Ora di nuovo il silenzio. E già immagino le risposte di conduttori televisivi e direttori di giornali. Cosa? Vuoi parlare di un gay? Ma è demodé, passato il santo, si fa per dire ovviamente, passata la festa. Il World Pride è morto, è sepolto. Adesso la gente è stanca e vuole tornare a pensare che il mondo è immerso in quella normalità che in fondo ama tanto. Al più vuole essere terrorizzata con affermazioni forti su argomenti più ricchi di luoghi comuni. Ecco, la pedofilia, ad esempio, ora tira questo argomento. Si sa, tutta l'informazione dei mass media ora segue solo ciò che è trend. Beh, invece noi vogliamo parlarne ancora di questo World Pride. E devo dire che non è per niente facile. In primo luogo, ancora una volta vogliamo dare onore e merito al Circolo Mario Mieli, che è riuscito in un'impresa che ad un certo punto era sembrata quasi impossibile. Bravi agli uomini e alle donne dell'ILGA, l'International Lesbian and Gay Association, e dall'EPOA, lo European Pride Organizer Association, che hanno garantito al Mieli un apparato organizzativo e di interconnessione di respiro internazionale. Bravi tutti e tutte, ma qual è stato il costo dell'operazione? No, non quello economico. A differenza di altre associazioni e gruppi, non è questo tipo di discussione che ci interessa. A noi interessa capire qual è stato il costo in termini di mediazioni politiche o pseudotali. Ci interessa capire perché una manifestazione che dovrà essere di rottura rispetto ai cosiddetti valori cattolici è diventata quasi il giubileo dei froci, con tutto il rispetto che noi lesbiche possiamo mettere in questo termine. La scelta di Roma come sede del World Pride 2000 era stata proposta dallo stesso Mieli, proprio per la concomitanza con il giubileo. E lo slogan portante doveva essere 2000 anni di resistenza, ovvero 2000 anni di lotta contro la volontà di annientamento che la Chiesa Cattolica e tutti gli integralismi religiosi hanno da sempre espresso con le parole e con i fatti contro i gay e le lesbiche. Cosa è successo? D'accordo sul mediare, per rendere fattibile la manifestazione. Ma mediare non vuol dire snaturare, e mediare non vuol dire evitare di esprimere, almeno dopo il Pride, un commento fortemente critico contro quell'amministrazione comunale che ha prima dato e poi negato un patrocino, che ha formalmente negato il permesso di sfilare intorno al Colosseo, ma che non ha fatto niente per impedirlo, chiaro segno di un tacito ma umiliante accordo sottobanco con gli organizzatori. Un'amministrazione comunale che non ha fornito 500.000 di persone del benché minimo servizio di assistenza. Sotto un sole allucinante, per gay e lesbiche non c'erano acqua o bevande fresche in nessuno dei bar della zona del corteo. e di pochissimi chioschi che si trovavano al Circo Massimo hanno chiesto ad una folla assetata fino a 10.000 lire per una mezza bottiglia di acqua minerale. Certo, i giovani gay e le giovani lesbiche non appartenevano al popolo dei coccolatissimi bravi ragazzi del Giubileo dei Giovani. Nessuna partecipazione, nessun aiuto, nessuna agevolazione da parte dell'amministrazione comunale, di quel Rutelli che Imma Battaglia, presidente del Mario Mieli, definisce addirittura bravo nel suo articolo pubblicato su Out di ottobre, per aver detto, nel suo perfetto new style cattolico, i figli sono figli e basta. Mi sembra davvero un po' troppo. Analogamente, come viene fatto nello stesso articolo, mi sembra troppo fare un parallelo tra il World Pride ed il Giubileo dei Giovani, dicendo che quella folla di persone che la Casa della Libertà definisce perverse, pervertite e senza futuro, era in piazza con valori assimilabili a quelli dei Papa Boys. Che succede? Quando Rutelli è andato a sposarsi in chiesa ed ha ritirato il patrocinio al Pride, tutte noi abbiamo pensato che stava preparandosi il dopo Roma, e direi che purtroppo avevamo ragione. Ma per il Mieli, che senso ha continuare a negare l'evidenza? Quali debiti di riconoscenza o d'altro ha o crede di avere nei confronti di Rutelli e dei suoi compagni di partito? Sono questi i soggetti che si propongono come rappresentanti del movimento omosessuale? Ma la domanda vera, sicuramente più interessante delle passate e future strategie del Mieli, è: questo World Pride ha cambiato qualcosa nella coscienza e nella cultura dell'Italia? A questo punto non credo proprio. Sicuramente siamo messe male se uno degli effetti è stato sentire pubblicizzare il nuovo film spagnolo Segunda Piel, presente nelle sale in questi giorni, come il film più intelligente dopo il Gay Pride. D'accordo, un grande tessuto lirico, delle stupende interpretazioni, ma diavolo, sembra una versione riveduta e corretta della Luna nel Pozzo, il grande dramma sulla mancata accettazione della propria omosessualità, vissuto in questo film da un ragazzo psicologicamente turbato e confuso. Ma basta. E poi, ancora una volta, non siamo riusciti e riuscite a proporci come il soggetto poliedrico e difforme che nella realtà siamo. Non abbiamo inneggiato a quel rispetto delle differenze nelle differenze, che invece è l'unica via d'uscita per imporci come minoranza cosciente ed eterogenea. I giornali in quei giorni parlavano infatti di gay e lesbiche come un soggetto indistinto in cerca di una soluzione omologante alla propria diversità. Sentite i titoli degli articoli pubblicati nei giorni caldi del Pride. Sempre più orgogliosi di essere normali. Non siamo diversi, vogliamo una legge. Una parata di famiglia e il peccato non c'è più. E così via. Sia ben chiaro, la nostra non è una critica sterile di chi sta seduto in poltrona semplicemente a giudicare l'operato altrui. Noi ci siamo messi in gioco, con le poche forze ma anche con la coerenza che un movimento controcorrente, come il lesbismo separatista, può mettere in campo. Nel nostro evento, When Night is Falling, durante il World Pride abbiamo fatto suonare le Tribad, un gruppo di ragazzi italo-francesi che ha scelto di abbandonare le città e di vivere in una micro-società tutta al femminile, ma senza rinunciare a lottare contro una società di disuguaglianze, come dimostravano le parole dei loro testi in musica. Abbiamo proiettato film come Damned If You Don't e Io la peor de todas, fortemente critici contro l'opera di distruzione e di repressione attuata dalla Chiesa Cattolica contro le donne e le lesbiche. Ci siamo messi in gioco con la nostra faccia e le nostre sparute risorse, tutte derivanti dal faticosissimo autofinanziamento, e l'abbiamo lavorato sodo. E c'è un altro aspetto che questa volta non deve essere taciuto, pena il negarsi forse un'ultima opportunità di crescita collettiva. Questo, purtroppo, è stato il pride della mancanza di contenuti da esportare nella società eterosessuale, ma soprattutto delle grosse fratture interne al fantomatico movimento omosessuale, che in Italia non è mai esistito e mai esisterà, se non decidiamo di affrontarle ed accettarle, le nostre molteplici differenze. Le polemiche tra gruppi e correnti si sono sprecate ed a volte nessun tentativo di mediazione è riuscito a permettere il raggiungimento di un obiettivo comune. Per quanto ci riguarda più da vicino, basta pensare a quello che è successo per il treno lesbico, ma in tutta onestà, anche questo tonfo enorme che tutti abbiamo collezionato come lesbiche non è niente rispetto ai giochi di potere più o meno manifesti, ai colpi più o meno bassi, alle promesse di collaborazione mai mantenute, ai grossi interessi economici, eccetera, eccetera, eccetera, che si sono visti prima, durante e dopo il World Pride tra tutte le associazioni nazionali e locali. Infine resta una domanda di fondo. Ma se gay, transessuali, lesbiche, eccetera, quando vengono intervistati ed intervistate, esprimono questa grossa volontà di essere esattamente come gli etero, sposati, con figli, ed assolutamente uguali a tutti gli altri onesti e passivi contribuenti. A che pro fare una manifestazione come il Pride? E perché si chiama Pride? Orgoglio di che? Di essere più normali dei cosiddetti normali? Try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sisters, my brothers, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. La canzone che manderemo tra poco è Stupide parole delle Ventra, un gruppo che è venuto da noi a suonare all'iniziativa fatta in occasione del World Pride, When Night is Falling, ed è musica assolutamente indipendente. Yeah. volevo soffermarmi un attimo sull'analisi del World Pride, perché è innegabile che un evento del genere non permetta poi alcune valutazioni. Debora ha fatto delle considerazioni molto pertinenti e profonde, e il mio intervento non è assolutamente in contrapposizione al suo, né vuole ridire cose già dette. Voglio semplicemente ribadire il concetto che il coordinamento lesbiche romane non è mai stato favorevole alla politica della rivendicazione dei diritti civili. E qui ci vuole un po' di memoria storica. Ho ripreso in mano l'elaborato che il coordinamento ha prodotto nel 1997 come contributo per il convegno Il mondo da fare sul ruolo politico delle lesbiche, che si è svolto nei locali del centro femminista separatista del Buon Pastore dal 20 al 22 giugno del 97. In quel documento noi abbiamo preso subito le distanze da quello che avevamo intuito sarebbe di lì a poco diventato il cavallo di battaglia di alcuni gruppi politici, primo fra tutti quello della neonata arcilesbica. Non per una sterile presa di posizione, ma per una convinzione politica dettata da diversi intenti, diverse modalità e diverse strategie di intervento. Insomma, alla necessità di legittimare il matrimonio tra omosessuali non ci abbiamo mai creduto. Se mi permettete, vi leggo qualche stralcio di quel documento. Dunque, molto è cambiato per le lesbiche dagli anni del femminismo e tante di noi hanno dato vita a realtà che, con diverse pratiche, hanno contribuito a rendere visibile la nostra presenza nel panorama italiano. Giorno dopo giorno si riscontra un apparire dell'omosessualità che quanto più è agito su di noi, tanto più è esterno a noi, riportando sempre ad una immagine normativa ed istituzionalizzata. Attualmente in Italia, tra quelle che motivano la loro azione in base alla scelta sessuale operata, possono essere macroscopicamente distinti due orientamenti che afferiscono rispettivamente da una parte alla neonata arcilesbica, dall'altra ai gruppi separatisti. Paradossalmente, è ricercando i punti comuni ai due orientamenti che si evidenzieranno le maggiori differenze. Entrambe le aree aspirano alla libertà, ma da una parte si opera per ottenere una libertà di agire e dall'altra si spinge per la libertà di essere. In un concetto onnicomprensivo come quello della libertà, le contraddizioni e i pericoli sono molteplici. Affermare genericamente che si lotta per la libertà di amare chiunque si desideri può svuotare del suo significato politico la scelta rivoluzionaria di amare una donna e non un uomo. Un altro punto che potrebbe essere considerato comune è la lotta contro un potere precostituito e bigotto. Chiedere la legittimazione del matrimonio sembrerebbe un modo di agire questa lotta, ma ci siamo chieste il perché lo Stato e la Chiesa al momento la rifiutano? Il motivo di questo rifiuto è il non voler integrare gli omosessuali nella società attuale. Ma per noi la società attuale, ed in particolare il concetto di famiglia, è accettabile? Se è accettabile, cosa motiva la nostra scelta sessuale? Concentrare la propria lotta nel cercare di ottenere delle leggi ritenute adeguate o giuste per le lesbiche è di conseguenza una forte contraddizione. Il miglior modo di destabilizzare è invece cercare di utilizzare gli strumenti già esistenti per dimostrare di essere soggette di diritto e non chiederne di nuovi per essere meglio tollerate da un mondo di cui già facciamo parte. Beh, se questa non è coerenza, ma torniamo alla nostra scelta di partecipare al World Pride. Prima di tutto, c'è da dire che noi eravamo consapevoli che il rischio sarebbe stato quello di far diventare questo evento come una specie di portabandiera per la richiesta dei diritti civili, ma proprio la nostra partecipazione avrebbe, a nostro modo di vedere chiaramente, garantito una lettura diversa. Tutto il cancan che si era creato intorno a questo appuntamento mondiale ha avuto il merito di costringerci, in un certo senso, ad uscire per scendere in piazza. Al di là dei diritti civili, la posta in gioco era troppo grande. Da una parte non si poteva lasciare senza risposta quella continua e costante dimostrazione di volgarità insultante dei diversi Storace, Fini, D'Urso, insomma di tutta la destra che ci voleva sì al Colosseo, ma con i leoni. E dall'altra parte il silenzio o le flebili risposte della sinistra, o meglio della pseudo-sinistra, che voleva farci fare un corteo piccolo piccolo, e quel corteo piccolo piccolo lo consideravano pure inopportuno, ma purtroppo c'è la Costituzione, altrimenti nell'esaltazione dei loro slanci di democrazia neanche ce lo avrebbero fatto fare. Era come se improvvisamente il World Pride fosse diventato l'ago della bilancia. Era l'evento che poteva permetterci di urlare, rivendicare e ribadire che il sesso non è una questione morale, ma è una questione di civiltà. E partecipare o non partecipare al World Pride, intervenendo su una questione che riguarda la libertà, significava far scendere l'ago della bilancia o verso il totalitarismo o verso la democrazia. Scendere in campo per la libertà significava creare un problema e una questione politica. Questo ago della bilancia ha significato per noi evidenziare un terreno di scontro politico, non sulla morale, ma sul senso della giustizia. Ricordiamoci che ha preso posizione anche il pontefice e la destra cardinalizia ha dato dimostrazione del suo stretto rapporto con il potere e la politica italiana, schierando Sodano, Ruini e Biffi. Ma il coordinamento lesbiche romane non intende fare solo politica attraverso momenti di rivendicazione. Il World Pride ci ha permesso, come ho detto prima, di urlare, rivendicare e ribadire, ma questa forma di politica non può essere esaustiva e soprattutto non può essere da sola determinante. La rivendicazione è una politica che deve venire dopo. Il coordinamento lesbiche romane ritiene che la politica fondamentale di cui dovremmo occuparci è quella che viene fatta prima, una politica culturale. Spesso si è detto che l'ottenere i diritti civili per gli omosessuali significhi ottenere una condizione di parità. Per noi questa è la politica dell'appiattimento, la politica dell'omologazione, una ideologia liberale che esalta la tolleranza, dove chi tollera è l'eterosessuale e chi ha tollerato è l'omosessuale, sempre a patto che si adegui. Si esalta il concetto di normalità, chiaramente quella eterosessuale, ed il concetto di anormalità. L'omosessuale che diventa però quasi normale se si omologa. Noi vogliamo fare una politica culturale che permetta lo smantellamento critico del concetto di normalità. Riprendo per concludere questo mio intervento ancora una volta il documento che il coordinamento lesbiche romane ha scritto per il convegno del 97. Vi leggo due frasi. La prima: la visibilità senza presupposti politici pregnanti non porta trasformazione. E ancora, la lotta per i diritti civili può sottendere una pacificazione nel vivere quotidiano che è in forte contrasto con chi si pone come strategia una mirata politica culturale ed espressione di conflitto con la società odierna fondata su leggi etero-orientate, sulla sopraffazione, l'oppressione e sulla negazione assoluta della possibilità di una scelta sessuale diversa. Thank you.

E adesso andiamo con la nostra rubrica degli appuntamenti senza sigla per problemi tecnici della diretta. Il circolo Drasticamente di Arci Lesbica di Padova organizza il 25 e 26 novembre una rassegna di teatro lesbico intitolata Tribe de Ridens 2, che si terrà presso il Teatro delle Maddalene di via San Giovanni di Verdana 40 a Padova. Per informazioni telefonare allo 0497 75699 ogni mercoledì dalle 21.30 alle 23. In risposta alla campagna omofoba e diffamatoria messa in atto negli ultimi mesi da Umberto Bossi, Arcigay e Arcilesbica hanno lanciato per il 22 ottobre la giornata nazionale contro l'omofobia, che vedrà le strutture territoriali delle due associazioni scendere in piazza in ogni città, insieme a tutte le realtà o ai cittadini che vogliono condividere questa iniziativa, per raccogliere firme in calce all'appello per un paese più libero e civile. L'appello, che per dovere di cronaca vi riportiamo per intero, seppure, come ampiamente spiegato da Caterina, non collimi del tutto con gli interessi del coordinamento lesbiche romane, è il seguente. La diffamazione e la discriminazione nei confronti degli omosessuali e delle lesbiche è una forma di razzismo, un atteggiamento incivile che deve essere bandito dalla competizione elettorale e democratica. Siamo allarmati e avviliti di dover assistere nell'Italia del 2000 al risorgere di un razzismo che diffama oggi i gay e le lesbiche accostandoli alla pedofilia, che rivendica la discriminazione giuridica nei loro confronti come una pratica legittima e anzi come un valore civile, proprio come decenni or sono diffamava e reclamava la discriminazione degli ebrei. Chiediamo invece al Parlamento italiano di approvare quanto prima una legge che estenda alle persone omosessuali la tutela da ogni forma di discriminazione, aggressione e violenza che già oggi protegge tutte le altre minoranze, e una legge che riconosca alle coppie omosessuali e lesbiche parità di diritti e pari libertà di scelta sui rapporti giuridici e patrimoniali destinati a regolare la loro unione. Si aprirà il 24 ottobre a Bologna, concludendosi il 12 dicembre, con appuntamenti bisettimanali, il Festival Donne di Musica, organizzato dall'Associazione Orlando nell'ambito della musica sinfonica. Per informazioni telefonate allo 051 2397 88 dalle 9.30 alle 12.30. Ma nonostante il nome dato al festival, le partecipazioni degli artisti non sono solo femminili. Il Resto del Carlino di venerdì ha pubblicato con grande sdegno la notizia di Maria ed Anna, chiameremo anche noi le due ragazze con gli pseudonimi usati nell'articolo. Le ragazze romane di 14 e 17 anni, il cui amore, ostacolato dai genitori di Maria, ha determinato la fuga di casa della 14enne. Ora Anna è incriminata per minacce, molestie e violenza privata, accusata dal padre di Maria di essere l'autrice di telefonate anonime e vere e proprie minacce esplicite di violenza. È sempre difficile capire quale sia la verità, soprattutto quando a parlare di questi episodi è un giornale di destra come Il Resto del Carlino. Se Maria e Anna hanno deciso di vivere questa storia in maniera consapevole, a noi non resta che augurare loro buona fortuna e dal papà di Maria di lasciarle finalmente in pace. The news says that we live in the age of as we prepare to set the stage. What we're learning here today is who we're really sitting next to, and we look to our government, but they act like they don't know what to do. Un altro gruppo che ha suonato a When Night is Falling, la nostra iniziativa durante il World Pride. Questo è un gruppo di donne londinesi con tantissimi strumenti, perfino un violoncello elettronico, E le ragazze, il gruppo si chiama Gertrude, da Londra presenta X-Ray. Questo è l'ultimo brano che mandiamo in onda questa sera, l'appuntamento è come sempre a martedì prossimo e vi ricordiamo che per raggiungere il coordinamento Lesbiche Romane che ha organizzato questa trasmissione il numero di telefono è 06 68 64 201 e l'email clrbp@hotmail.com. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got on.